Capitolo 21. Il Signore visitò Sara come aveva detto, e il Signore fece a Sara come aveva annunziato. Sara concepì e partorì un figlio ad Abramo, quando egli era vecchio, al tempo che Dio gli aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato e che Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco all'età di 8 giorni, come Dio gli aveva comandato. Abramo aveva 100 anni quando gli nacque suo figlio Isacco. Sara disse: «Dio mi ha dato di che ridere. Chiunque l'udrà riderà con me». E aggiunse: «Chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato figli? Eppure io gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia». Il bambino dunque crebbe e fu divezzato. Nel giorno che Isacco fu divezzato, Abramo fece un grande banchetto. Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar, l'egiziana, rideva. Allora disse ad Abramo: «Caccia via questa serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco». La cosa dispiacque moltissimo ad Abramo a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: «Non addolorarti per il ragazzo, né per la tua serva. Acconsenti a tutto quello che Sara ti dirà, perché da Isacco uscirà la discendenza che porterà il tuo nome. Anche del figlio di questa serva io farò una nazione, perché appartiene alla tua discendenza». Abramo si alzò la mattina di buon'ora, prese del pane e un'otre d'acqua e li diede ad Agar, mettendoglieli sulle spalle con il bambino, e la mandò via. Lei se ne andò e vagava per il deserto di Beersheba. Quando l'acqua dell'otre finì, lei mise il bambino sotto un arboscello e andò a sedersi di fronte a distanza di un tiro d'arco, perché diceva: «Che io non veda morire il bambino». E seduta così di fronte, alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del ragazzo, e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: «Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo là dov'è. Alzati, prendi il ragazzo e tienilo per mano, perché io farò di lui una grande nazione». Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua e andò, riempì d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. Dio fu con il ragazzo, egli crebbe, abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli si stabilì nel deserto di Paran e sua madre gli prese per moglie una donna del paese d'Egitto. In quel tempo Abimelech, accompagnato da Picol, capo del suo esercito, parlò ad Abramo dicendo: «Dio è con te in tutto quello che fai. Giurami dunque qui nel nome di Dio che tu non ingannerai me, né i miei figli, né i miei nipoti, ma che userai verso di me, verso il paese dove hai abitato come straniero, la stessa benevolenza che io ho usata verso di te». Abramo rispose: «Lo giuro». Poi Abramo fece delle rimostranze ad Abimelech a causa di un pozzo d'acqua di cui i servi di Abimelech si erano impadroniti con la forza. Abimelech disse: «Io non so chi abbia fatto questo. Tu stesso non me l'hai fatto sapere, e io non ne ho sentito parlare che oggi». Abramo prese pecore e buoi e li diede ad Abimelech, e i due fecero alleanza. Poi Abramo mise da parte 7 agnelle del gregge. E Abimelech disse ad Abramo: «Che cosa significano queste 7 agnelle che tu hai messe da parte?» Abramo rispose: «Tu accetterai dalla mia mano queste 7 agnelle perché ciò mi serva di testimonianza che io ho scavato questo pozzo». Per questo egli chiamò quel luogo Beersheba, perché entrambi vi avevano fatto giuramento. Così fecero alleanza a Beersheba. Poi Abimelech, con Picol capo del suo esercito, si alzò e se ne tornarono nel paese dei Filistei. E Abramo piantò un tamarindo a Beersheba e lì invocò il nome del Signore, Dio dell'eternità. Abramo abitò molto tempo come straniero nel paese dei Filistei.